Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Se una telefonata allunga la vita, recitava molti anni fa un famoso spot di una compagnia telefonica, la costituzione di parte civile in processi di mafia al sud può accorciarla. Ne sa qualcosa il sindaco di Rosarno, Elisabetta Tripodi, alla quale il boss Rocco Pesce, detto il pirata per il vezzo di una benda all'occhio destro, ha scritto una lettera incredibilmente su carta intestata del comune, in cui tra le tante cose allusive scrive: «Sono con la presente per esprimere tutto il mio rammarico e disappunto in relazione al fatto che il comune di Rosarno si sia costituito parte civile nel procedimento a carico mio e della mia famiglia, dato che da parte nostra non vi è stata alcuna azione penalizzante a danno delle istituzioni, dei commercianti o degli abitanti nel comune di Rosarno da lei rappresentato». Il 5 settembre Rocco Pesce, già condannato all'ergastolo, è stato raggiunto da un nuovo ordine di arresto a seguito della lettera minaccia. Il sindaco invece è stata messa sotto scorta. Forse, chissà, ad allungare la vita ci pensa alla mancata costituzione di parte civile in un processo di mafia. Secondo l'onorevole della Commissione parlamentare antimafia Angela Napoli, che ha denunciato il caso, ne potrebbe sapere qualcosa il comune di Taurianova, città dove l'andrangheta si respira, che con una decisione a sorpresa il 28 luglio ha deciso di revocare la delibera del commissario prefettizio, con la quale veniva disciplinata proprio la costituzione in giudizio per vari tipi di reato. Il sindaco Domenico Romeo, lo stesso che c'era quando il comune è stato sciolto per mafia, ha reagito duramente dicendo che è stato un attacco politico personale e che la costituzione di parte civile in processi per mafia non si discute. Ma se è così, ci domandiamo, perché mai revocare la delibera del commissario prefettizio? Buona giornata e a domani.